Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo di un tema trasversale in qualche maniera, perché interessa la gioventù ma interessa anche le famiglie, e perché è un tema, come dire, appunto trasversale, perché non appena si raggiunge la maggiore età, come sapete bene, insomma, per molti ragazzi questo è il primo appuntamento che si vuole rispettare, quello del prendere la patente, anche se prendere la patente sta diventando sempre più difficile. In questi giorni stanno entrando in vigore le prime direttive previste dal nuovo codice della strada sul rilascio dei permessi di guida, anche se le novità più qualificanti e di più ampia portata non sono ancora in vigore, nonostante appunto la riforma del codice della strada, la legge 120 dello scorso anno, si avvii ormai il suo primo compleanno, che sarà celebrato il 29 luglio. Allora, ci sarà più severità nel rilascio dell'abilitazione alla guida, lo scopriremo questa mattina tra le novità più importanti delle quali vorremmo parlare, quel divieto intanto che è già operativo di guidare auto potenti nel primo anno di patente B, e poi le regole per ottenere una patente A o B per moto o macchine saranno uguali, bisognerà superare un esame teorico ed una prova pratica, ma il test teorico metterà i candidati di fronte a 40 domande, vero o falso, da affrontare sui computer della motorizzazione, e saranno permessi pochissimi errori, appena l'1%. Comunque, tra queste ed altre tante appunto le novità di cui parlare, di cui appunto rendere consapevoli i nostri ascoltatori, e di tutto questo noi parliamo con Maurizio Caprino questa mattina, il nostro collega del Sole 24 Ore. Maurizio, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a voi. Che ha curato e coordinato la pagina di Affari Privati del Sole 24 Ore di lunedì, dal titolo proprio "Nuovo iter per avere la patente, a quasi un anno dalla legge 120, in vigore le regole su esami, preparazione e requisiti dei candidati, in ritardo però alcuni decreti come per esempio quello sulla guida accompagnata sui corsi in autostrada". 800 24 00 24, il numero verde che vi permette di farci delle domande in diretta, di interagire con noi, oppure potete utilizzare la modalità più timida, che è quella che vi permette appunto di scriverci degli sms al 349 238 6666, oppure scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire. Oggi una giornata positiva, si consolidano i rialzi di ieri, e sono due giornate di rialzi appunto che invece fanno seguito ad una giornata, quella di due giorni fa per l'appunto, che è stata piuttosto negativa per i mercati finanziari. È sempre la Grecia a tenere banco nelle attenzioni degli operatori. Adesso dovrebbe arrivare questo nuovo piano di aiuti da 60 miliardi, ne abbiamo parlato ieri per tutta la puntata di Salva Danaio. Dovrebbe essere un piano extra di aiuti appunto concordato lunedì prossimo e martedì prossimo in sede europea, vedremo appunto se si concretizzerà, però di fatto probabilmente per erogare questo nuovo denaro per far fronte alle necessità finanziarie della Grecia, probabilmente alla Grecia verranno chiesti nuovi sacrifici. A fronte di questi, oggi una giornata di nuove agitazioni appunto in Grecia. Detto questo, il mercato cinicamente però alle agitazioni sociali guarda poco, guarda più ai numeri, e oggi mette a segno un rialzo su Parigi dello 0,56%, Franco forte più 0,81%, Londra molto più tranquilla più 0,17%, oggi la Bank of England peraltro pubblica un rapporto sull'inflazione, Milano più 0,94% sulle FTSE MIB. Oggi Milano particolarmente gettonati, i titoli TOTS in rialzo del 2,28% alla vigilia della trimestrale, l'Ottomatica più 1,92%, Enel Green Power più 1,87%, arrivata a un passo dai 2 euro dopo la pubblicazione dei conti trimestrali questa mattina, e peraltro oggi anche l'Investor Day per il gruppo. Finmeccanica più 1,83%, Fondiaria SAI in rialzo dell'1,82%, oggi per Fondiaria c'è una nuova giornata di attesa per la pronuncia Consob sul riassetto che dovrebbe dare il via alla ricapitalizzazione. Prismian più 1,52%, Mediobanca più 1,26%. Segno meno invece per Pirelli di Assori, ne perdono circa lo 0,3%, Parmalat meno 0,15%. Avete sentito anche le notizie appunto da Raffaella Calandra nel corso del giornale radio, e questa mattina perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nelle sedi delle società coinvolte negli ultimi mesi nei passaggi appunto azionari dei titoli, e tutte operazioni, come sapete, rientranti nell'ambito del tentativo di scalata dei francesi di Lactalis al colosso di Collecchio. Euro su dollaro 1,4383, oggi una giornata molto brillante per la moneta unica europea. Sul biglietto verde è arrivata a toccare 1,44, e questo è successo dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione tedesca, che hanno superato abbondantemente il 2%, e come sapete questa soglia è molto attentamente monitorata dalla Banca Centrale Europea, che sulla base di questo superamento chiaramente stabilisce anche la sua politica monetaria. Il mercato ha già ripreso a scommettere sulla possibilità che la BCE faccia un aumento dei tassi di interesse per frenare l'inflazione, e su questa prospettiva l'euro stamattina si è subito mosso. Noi direi che possiamo lasciare tranquillamente la borsa, abbiamo detto quasi tutto. Naturalmente poi in fermento il settore tecnologico dopo la conquista da parte di Microsoft dell'altro colosso Skype, appunto notizia che ha movimentato molto il mercato ieri, un mercato che però a questo punto teme anche lo scoppio di una nuova bolla internet. Magari questa, chissà, potrebbe essere una tematica che affronteremo nei prossimi giorni a Salvadanaio. Adesso invece il tema di approfondimento di oggi, che è radicalmente diverso dal tema di mercato. Oggi parliamo delle nuove regole per prendere la patente. Tempi più duri per i giovani che non vedono l'ora di mettersi al volante. Cambiano le regole per prendere la patente. In questi giorni stanno infatti entrando in vigore le direttive previste dal nuovo codice della strada sul rilascio dei permessi di guida, valide sia per le auto che per moto e scooter. Per ottenere una patente A o B bisognerà sempre superare un esame teorico e una prova pratica. Prima di sostenere la parte teorica, che da 30 domande passa a 40 vero o falso, bisogna presentare due certificati medici, rilasciati non più di 90 giorni prima dell'esame stesso. Un certificato di idoneità fisica e un'attestazione delle più importanti malattie pregresse che possano influire sulla guida, entrambi rilasciati da un medico da cui si è in cura da almeno un anno. Il foglio rosa viene ora rilasciato ad automobilisti e motociclisti solo dopo aver superato il test di teoria e non più al momento stesso di iscrizione alla patente. Il foglio rosa dura 6 mesi, permette di esercitarsi alla guida e di sostenere l'esame pratico. Alla prova pratica ci si può iscrivere almeno 30 giorni dopo l'ottenimento del foglio rosa e si hanno 2 tentativi possibili. Se nell'arco dei 6 mesi di durata del foglio rosa non si riesce a superare l'esame pratico, il documento viene ritirato e bisogna ripetere anche il test teorico. Da marzo la prova pratica è obbligatoria anche per i cinquantini, di fatto ora equiparati alle moto. Maurizio, come puoi ben immaginare, quando appena ho lanciato l'argomento sono partiti soprattutto in studio tutti i ricordi del momento in cui abbiamo preso la patente. Io praticamente nel medioevo, perché l'ho presa a 18 anni appena compiuti. Tu invece che ricordi hai di quella fase della tua vita? Posso chiedere? Era come la notte prima dei 10 anni, perché esatto, contemporaneamente facevo la maturità, quindi ogni giorno mi svegliavo e c'era un esame da fare. Ma vale, poi mi ricorderò sempre, arrivai dall'esame pratico praticamente, quindi dall'esame di guida vero e proprio, con mio papà che mi guardava dal balcone di casa e mi disse: ma l'hai passato? Io sì, non ci posso credere, eppure guidavo anche discretamente bene. Quindi insomma, ricordi molto personali che nulla hanno a che fare con le nuove normative, con le nuove leggi, che comunque complessivamente, diciamo, nell'ambito della riforma del codice della strada, la legge 120, Maurizio, sono più stringenti rispetto a prima? Sì, sono più stringenti, nel senso che, per esempio, per dirne una, il foglio rosa, quello che noi tutti ricordiamo essere proprio un simbolo dei 18 anni, perché si poteva chiedere anche il giorno dopo averli compiuti, in realtà adesso arriva soltanto dopo aver superato l'esame di teoria, quindi è una formazione pratica che viene in qualche modo posticipata, ma posticipata a un momento in cui probabilmente si dimostra di avere un minimo di affidabilità in più alla guida, perché si conoscono più o meno le regole e i segnali. In compenso la riforma stessa ha previsto un anticipo, la cosiddetta guida accompagnata per i 17enni, però questa guida accompagnata non è ancora in vigore perché manca la norma di attuazione, quindi è un quadro abbastanza frastagliato. Eterogenea, che si deve ancora completare, sì, insomma. Esatto. Ecco, no, tra l'altro, tornando al foglio rosa, ho capito male? Stavo riguardando gli schemi che avevi preparato appunto proprio per la pagina del Sole 24 Ore di lunedì. Comunque prima aveva una validità di 6 mesi, adesso in qualche maniera, proprio in considerazione degli aspetti di cambiamento che hai citato prima, dura di più? Ma diciamo che la validità in sé rimane di 6 mesi, però cambia ciò che si può fare in questi 6 mesi, nel senso che mentre prima candidato poteva fruire, diciamo, se andava lungo con i tempi, poteva fruire diciamo del cosiddetto riporto, quindi se aveva già superato l'esame di teoria, questo esame gli veniva riportato anche sul nuovo foglio rosa, qualora non fosse riuscito a fare l'esame di guida o a superarlo, meglio, entro questi 6 mesi, adesso se fallisce deve rifare tutto, ma c'è un motivo, perché in realtà questo foglio rosa attuale, essendo rilasciato dopo, dà più tempo per prepararsi alla teoria, quindi alla fine diciamo al netto cambia poco, però bisogna essere consapevoli di questo cambio di modalità. Insomma. Allora, volevo intanto ricordare agli ascoltatori che possono intervenire all'800240024, scriverci al 349-238-6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci sono già delle domande che ci sono arrivate. Allora, io, siccome fra un po' devo già andare in pausa, inizio a leggerle, così almeno con Maurizio ci riflettiamo, anzi ci riflette lui, perché non saprei rispondere esattamente a queste domande così dettagliate. Silvia ci scrive: ho una Focus familiare, non posso prendere un'altra macchina, mia figlia è neopatentata, non potrà guidare per un anno, non è peggio, quindi certo, perché c'è la questione appunto dei neopatentati e delle auto di una certa cilindrata. E poi un altro ascoltatore che scrive invece, Loris: mi sapete dire se quando entra in vigore la legge che prevede un esame a seguito del corso per il recupero dei punti della patente? Non so se c'è in qualche maniera qualche norma infilata anche nella legge 120, su questi punti risponderemo dopo, così come subito dopo sentiremo anche Luca da Milano, a tra pochissimo. E allora abbiamo definitivamente stabilito in studio stamattina anche che io dovrei rifare qualche esame almeno di matematica, perché ho detto che 4 domande su 40 rappresentano l'1% dell'intero parterre delle domande. Maurizio Caprino, spero che tu abbia fatto finto di non ascoltare. No, ma sono asino come te in matematica, quindi vai tranquillo. Andiamo con la patente allora. Dunque, stavamo parlando delle nuove regole che è necessario appunto rispettare per poter ottenere l'abilitazione alla guida. Ci sono tante novità importanti che stanno gradualmente entrando a regime, tutte quante previste dalla riforma del codice della strada, la legge 120 dello scorso anno, nuove regole sugli esami, sulla preparazione e anche sui requisiti dei candidati. Allora, 800240024 è il numero verde per le vostre domande. E proprio prendendo a spunto una riflessione di una ascoltatrice, Silvia ci parlava della sua Focus familiare e diceva: io, proprio per il fatto che ho una figlia neopatentata che non potrà guidare per un anno un'auto di una certa cilindrata, non posso prendere adesso un'altra macchina. Lei dice: non è peggio, magari è peggio per l'industria automobilistica per ragioni di sicurezza, però Maurizio, questo è il divieto di guidare auto potenti nel primo anno di patente B. In realtà è un dubbio che mi sono fatto venire io, l'ho scritto più volte, nel senso che qui queste norme che restringono il novero delle auto guidabili da neopatentati hanno sicuramente un rovescio della medaglia che è abbastanza pesante, insomma, quindi sono fatte ovviamente per aumentare la sicurezza, però intanto succede proprio quello che ha denunciato la nostra ascoltatrice, cioè in un momento di crisi economica ovviamente non è pensabile che una famiglia che ha un'auto anche appena una media come quella che abbiamo sentito dalla nostra ascoltatrice, non è pensabile che una famiglia acquisti un'auto apposta per il figlio, tanto più che poi questo vincolo dura appena per un anno. Seconda cosa, avendo a che fare poi questo neopatentato con autovetture di comportamento su strada piuttosto frustrante, perché i limiti di potenza sono molto severi, insomma, cioè non è qui, non si tratta di divieto di guidare auto potenti, anche semplicemente la media o talune utilitarie usate dai genitori diventano troppo potenti per la legge, insomma, quindi alla fine queste prestazioni sono effettivamente scarse, ci si mette tanto tempo a fare un sorpasso, il neopatentato ovviamente al sorpasso non ci rinuncia e quindi addirittura i sorpassi durano di più e diventano più pericolosi, quindi dobbiamo pensare a questo. Ricorderei comunque quali sono i limiti, i vincoli di potenza: sono 55 kW per tonnellata, quindi un rapporto fra potenza e tara, e per le sole autovetture la potenza assoluta, a prescindere dal peso, non può superare i 70 kW. Sul portale dell'automobilista, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, se voi digitate la vostra targa, vi esce se vostro figlio può guidare o meno l'auto vostra. Maurizio, c'è una ascoltatrice che adesso ancora non facciamo in tempo a recuperare, ce ne sono già due in attesa, ma questa domanda, visto che è a tema con l'aspetto che stiamo affrontando adesso, te la faccio direttamente, anche se non abbiamo recuperato l'ascoltatrice in diretta. Lei dice, Marta da Torino, che ha il figlio neopatentato e dice che questo figlio può guidare anche un'auto di grossa cilindrata perché la patente l'ha già presa, quindi praticamente da quando scatta? Perché ho visto che è 9 febbraio. 9 febbraio 2001. Quindi se lui l'avesse presa a dicembre, il limite, diciamo, della cilindrata dell'auto per lui non vale. Esattamente. Perfetto. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Ancora prima di sentire, sempre relativamente alle auto di grossa cilindrata guidate da neopatentati, è vero che non c'è nessun limite di potenza per le auto guidate durante le prove effettuate con il foglio rosa? Esatto, sì, questa sembra una bizzarria, però in realtà è giusto, perché uno, se si sta esercitando, verosimilmente ha qualcuno che lo controlla. Questi limiti invece ci saranno quando entrerà in vigore la guida accompagnata, cioè il 17enne potrà guidare soltanto su auto poco potenti. L'altra deroga che c'è è quando si trasporta un disabile. Quando c'è un disabile a bordo si può guidare di tutto. Benissimo, andiamo agli ascoltatori. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie Luca. Ascolto. Meno male, ogni tanto qualcuno ce ne fa, perché c'ho qualcuno che in questo periodo ci sta un po' attaccando, poi magari questa storia la racconto agli ascoltatori, va, lasciamo stare. Senta, io non vorrei fare con la mia domanda far arrabbiare un po' gli anziani, però io ho 43 anni, ho davanti mia mamma e mio papà che entrambi hanno la patente e che col passare dell'età, cioè tra 60, 50, 60 e 70 anni, guidano e guidano in un modo sempre diverso. Vorrei sapere se nel nuovo codice della strada, per il rinnovo della patente, c'è qualche cosa di più che non solo la visita oculistica e il fatto che ci sentano, perché una persona che ha 70 anni, a cui viene rilasciata la patente anche per solo un anno, per solo due anni, ok, ma non gli viene mai fatta una prova pratica. E allora capisco che i ragazzi di 17 anni non possono guidare delle macchine ultra potenti, però lei dice insomma, anche avendo superato. Io capisco anche che mio papà, che guida a 70 anni e guida con una certa fatica, per cui per certi versi forse è meglio che non gliela diano la patente. Io parlo per, per mio papà, non per gli anziani in generale. Certamente ha fatto questa conversazione, Luca ha fatto questa conversazione con suo papà, gliel'ha detto, se io, secondo me non la immagino questo dialogo. No, perché magari non è d'accordo, giustamente. Però io volevo sapere se nel nuovo codice esiste anche una prova pratica, insomma. Per il rinnovo della patente per over 60-70 anni, peraltro non ci dimentichiamo che molto spesso trasportano anche bambini, nipotini, per cui è chiaro che il regime di sicurezza andrebbe tenuto molto severamente sotto osservazione. Maurizio Caprino, esiste qualcosa del genere? No, purtroppo no. L'unica prova pratica aggiuntiva che è stata prevista dalla riforma del codice è quella per guidare le microcar e i motorini. Per il resto no, per le persone anziane è solo, tra virgolette, solo previsto che oltre gli 80 anni la validità della patente scenda dai tre anni precedenti ai due, e ci si debba sottoporre alla visita non da parte del medico da cui siamo tradizionalmente abituati ad andare in caso di rinnovo patente, ma bisogna andare in commissione medica locale. Questo è stato un po' un autogol della riforma del codice, perché le commissioni mediche locali, siccome hanno 30.000 compiti, sono già assolutamente oberate di lavoro, quindi alla fine rilasciano un appuntamento a un anno, quindi alla fine la durata resta sempre di tre anni. Con questa prenotazione peraltro si può circolare, una volta che si è prenotata la visita si può continuare a circolare anche con patente scaduta. Carmelo da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho una patente dal 93, ho la patente B, C, D, E, CAP, CQC. Sì, tutto l'alfabeto praticamente ha Carmelo. No, mi manca la A. E volevo chiedere cosa devo fare per questa patente A, tutti gli esami, due certificati. confiscati, cioè tutto è oppure se, come dire, può avere una procedura un po' più veloce, visto che è già un curriculum piuttosto ampio di patenti. Maurizio Caprino, sì. Allora, per conseguire la A, Carmelo deve fare tutto da zero? Essere considerato alla stregua di un neopatentato? No, nel senso che è sufficiente che si sottoponga alla prova pratica, quindi non deve rifare la teoria, però poi ovviamente quando conseguirà anche questa patente A, ai fini della sola patente A sarà considerato neopatentato, quindi per i primi 3 anni potrà guidare soltanto moto diciamo con limiti di potenza che sono previsti dal codice. Noto tra gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, Maurizio, molte osservazioni sul fatto che in qualche maniera iscriversi al corso appunto per prendere la patente, ti leggo l'ultimo messaggio che è arrivato, sembra sempre più simile alla candidatura per diventare astronauti, sana e robusta costituzione e quant'altro, oggi è diventato persino impossibile potersi godere una sana serata a cena fuori perché c'è l'incubo del tasso alcolico, alcolemico, viaggiare in autostrada è diventato antieconomico a causa dei continui divieti, e insomma queste sono un po' le perplessità degli ascoltatori. Credo che però tutto l'impianto della riforma abbia una ratio ben ampia e ben chiara, Maurizio, o no? Diciamo che rispetto a quando abbiamo preso la patente noi sono cambiati i tempi, nel senso che è aumentato il traffico, abbiamo dato la patente praticamente a chiunque, perché ormai tanti genitori hanno proprio l'idea che la patente del figlio sia un po' un atto dovuto, come conseguire la carta d'identità, e invece no, perché soprattutto perché siamo sempre di più su strada, quindi dobbiamo renderci conto che dobbiamo essere sempre più capaci di starci su strada, appunto. Quindi oggettivamente sì, sono stati un po', c'è stato un po' un inasprimento, però devo dire che non è quello che ancora sarebbe necessario, perché per esempio non dobbiamo, diciamo, quando prendiamo la patente dobbiamo fondamentalmente soltanto dimostrare di saper fare il giro dell'isolato, in futuro dovremo anche dimostrare di saper guidare in autostrada, però tutto ciò è nulla in rapporto per esempio a quella che è la gestione di una manovra d'emergenza, non sono previste manovre d'emergenza che invece dovrebbero essere parte integrante di una della necessaria preparazione, insomma. Quindi... Benissimo, allora hai citato le autostrade, Maurizio, sentiamo proprio sulle strade italiane cosa sta succedendo per poi ridare il microfono ai nostri ascoltatori, a Massimo da Roma, a Daniela da Milano e a tanti altri anche che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, e poi c'è anche chi fa qualche osservazione sul costo del prendere la patente in Italia, che è molto diverso rispetto a tanti altri paesi. A tra poco. Allora, stiamo parlando del nuovo iter per l'avere la patente, di tutte le novità contemplate dalla legge 120, la riforma del codice della strada che si sta prestando a compiere un anno. Peraltro, tutte queste norme, Maurizio Caprino, non abbiamo detto una cosa importante, preparano il terreno anche all'ingresso nel nostro paese della cosiddetta patente europea nel 2013. Sì, esatto, perché in parte la riforma ha anticipato qualche contenuto dell'ultima direttiva, che è del 2009 ed è stata recepita pochi giorni fa dall'Italia, entrerà in vigore appunto il 19 gennaio 2013 e prevede appunto intanto che il patentino, quello che noi conosciamo oggi come patentino per i motorini, diventi una vera e propria patente, quindi si dovrà fare una visita medica uguale a quella delle altre patenti, per esempio. Poi verrà proprio ridisegnata la mappa di tutte le patenti superiori, diciamo quelle cosiddette professionali, quindi spariranno i certificati di abilitazione professionale, saranno sostituiti dalla carta di qualificazione che avrà un iter, insomma bisognerà dimostrare di avere una certa formazione, e tante altre micro novità di cui sicuramente avremo tempo e modo di parlare. Assolutamente. Guarda, questo è un argomento che ci piace, vedo che interessa molti dei nostri ascoltatori. Allora, sentiamo Daniela da Milano, poi vorrei fare anche un volo grazie ad una mail che ci arriva dall'altra parte dell'oceano. Mauro ci scrive dagli Stati Uniti, addirittura, chissà a che ora si è alzato per ascoltare Salvadanaio. Mauro, io le faccio i complimenti, la ringrazio molto, poi vi leggerò anche la sua mail, però prima andiamo ai nostri ascoltatori. Anzi, prima di Daniela forse c'era Massimo che aspettava da prima, Filippo, sì, andiamo a Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Senta, la questione è questa, mio figlio compie 18 anni il prossimo novembre, gli hanno detto che lui ha già la patente del motorino, il cinquantino per intenderci, e gli hanno detto che se fa la teoria del 125, questa teoria è valida anche per prendere la patente B. è ancora vero, è mai stato vero? Massimo, la ringrazio per la domanda. Allora, Maurizio, da quello che io ho capito, dal pezzo che hai scritto, ci sono delle regole comuni per ottenere la patente A o B. Sì. Dove si differenziano poi le strade? Sì, dunque, beh, sicuramente si differenziano soltanto per quanto riguarda la parte pratica, perché la prova pratica che è prevista per la patente A si divide in due, ce n'è una nel traffico e una, diciamo, in un percorso di birilli, fondamentalmente nel piazzale della motorizzazione. Insomma, bisogna stare attenti, diciamo, a osservare le istruzioni che impartisce l'esaminatore via radio, mentre invece nel caso della patente B la prova è una sola e si farà soltanto al momento in città, diciamo, sono 20 minuti in città, poi bisognerà vedere se nel frattempo saranno entrate in vigore le ulteriori norme previste dalla riforma che appunto demandavano a provvedimenti attuativi. Bisognerà vedere se appunto sarà entrato già in vigore l'obbligo di fare l'esame anche in situazioni di oscurità oppure anche fuori città, insomma. Quindi di qui a novembre è ancora oggettivamente presto, attendiamo questi decreti ministeriali e poi tante circolari esplicative che la motorizzazione emanerà, quindi insomma non è possibile dare una risposta definitiva per ora. Allora andiamo, come vi avevo anticipato, alla mail che ci scrive all'indirizzo salvadanaio@radio24.it Mauro, che ovviamente anche lui un po' ironicamente dice: perché non richiediamo la laurea in ingegneria fisica per prendere la patente? Su questo mi sembra anche un po' esagerato, io credo che comunque sia anche corretto, soprattutto per i giovani che qualche volta un po' di guida allegra ce l'hanno, essere piuttosto stringenti con i requisiti appunto di sicurezza. Comunque, detto questo, che può essere un giudizio mio e non condiviso, ed è ovviamente corretto anche che sia così, l'esame per la patente italiana, dice, era già uno dei più ostici, se non il più ostico al mondo. Non teniamo conto degli stranieri residenti in Italia, per cui devono passare un esame in un italiano che è difficile da comprendere anche per un madrelingua. Mi sembra che, come al solito in Italia, si sia voluto complicare in maniera inverosimile una cosa semplice come la patente. Siamo l'unico paese al mondo dove la patente costa un occhio della testa. Negli Stati Uniti, dove vivo da anni, la patente costa $25, gli esami si possono sostenere nella propria lingua. Ha fatto delle osservazioni giuste Maurizio, il nostro ascoltatore che ci scrive dagli Stati Uniti? Sì, in parte sì, perché poi oggettivamente la conoscenza che ha un patentato italiano non è affatto migliore rispetto alla conoscenza di un patentato di altri paesi. Noi siamo stati nei decenni maestri soltanto nel articolare dei quiz burocratici, insomma, per cui sono quasi degli indovinelli per le gulei, insomma, ecco. Però devo dire che qualcosina è cambiato dal 2 gennaio scorso, perché a prescindere dalla riforma del codice della strada sono stati un po' riadeguati i quiz, questo anche per andare dietro, anche per star dietro anche alle evoluzioni europee, e quindi sono sparite intanto un po' di formulazioni, appunto, come dicevo prima, burocratiche, cioè sono domande più semplici anche da leggere, e poi sono stati, a livello di argomenti, sono stati un po' cambiati, quindi è sparita un po' una parte più burocratica per privilegiare delle domande un po' sulla sicurezza sul campo, e qui probabilmente hanno fatto bene, anche se qualcuno critica il fatto che, per esempio, non sono più previste domande sulle sanzioni, quindi per esempio uno non sa esattamente che cosa rischia se ha un certo comportamento, poi magari gli ritirano la patente e si stupisce anche. Invece no, c'è un problema oggettivamente per gli stranieri, perché sempre al 2 gennaio non è più previsto che gli stranieri possano fare gli esami nella loro madrelingua. Sono previsti esami soltanto per in francese e in tedesco, per Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, per ovvi motivi, insomma. Certo, relativamente all'aspetto dei costi invece il nostro ascoltatore ha ragione. È mai capitato, Maurizio, così anche solo per curiosità, non tanto anche per inchieste del Sole 24 Ore, di fare così un po' un esame di quelli che sono gli oneri che è necessario sostenere per ottenere la patente di guida? E poi, siccome l'ascoltatore dice anche che il nostro è l'esame più ostico al mondo, tutte queste regole delle quali stiamo parlando, si concretizzano anche in un elevato tasso di bocciatura l'esame di guida, oltre che di pratica, appunto, che è quello precedente, Maurizio? Allora, Allora, l'esame, come dicevo prima, è ostico, ma solo per la parte teorica, perché era scritta in burocratese. Poi in realtà, quando si arriva al sodo, bisogna solo saper dimostrare di saper fare il giro dell'isolato, e credo che ci riuscirebbe anche un ragazzino alle prime armi, insomma. Ecco, quindi c'è molta differenza fra la teoria e la pratica, purtroppo. E ripeto, ci vorrebbero manovre di emergenza. Non ricordo la prima domanda. Ah sì, era quella sui costi. Sui costi. Allora sì, oggettivamente i costi non sono bassi, anche l'antitrust ci ha messo il naso più di una volta. Quello che fa rabbia è che poi, a fronte di questo costo alto, non si abbia un controvalore, nel senso che, come dicevo prima, bisognerebbe avere o ottenere una formazione davvero all'altezza, non la si ottiene. Questo perché magari anche qualche autoscuola volenterosa ci ha provato, però poi la clientela ha detto no, troppo difficili i vostri corsi, vado all'autoscuola che mi fa prendere la patente più facilmente. Invece, ricordiamolo, la patente non è una carta d'identità, come disse un noto ministro anni fa, la patente è come un porto d'armi, quindi più la prendete, più scrupolosamente la prendete, meglio è. Meglio. Daniela, rapidissima, se ce la fa, perché stiamo chiudendo, buona giornata. Sì, buongiorno. E io volevo solo dire una cosa veloce riguardo ai neopatentati. Mia figlia ha preso la patente dopo il 9 di febbraio, perciò rientra nelle limitazioni della riforma del codice. Ecco, io ho una semplice micra che pensavo potesse essere guidata tranquillamente, però è di 59 kilowatt. Allora, se chiamo la polizia e i vigili, loro mi dicono, a prescindere, se è 59 non può essere guidata, mentre invece sono andata sul sito che indicava anche... Sì, il portale dell'automobilista.it. Esatto, sì. Mettendo la targa mi dice che la può guidare. Adesso volevo chiedere... certo, portale... però poi magari la beccano i vigili, no, guidando, le fanno una bella multa perché... Non può. Daniela, grazie, devo chiudere. Maurizio, chi ha ragione, il portale dell'automobilista del Ministero delle Infrastrutture o la polizia allora, stradale? Fino a prova contraria ha ragione il portale dell'automobilista. Se la vettura però è stata immatricolata dal 4 ottobre 2007 in poi, il dato che cerca la signora è riportato direttamente sulla carta di circolazione, quindi ovviamente in caso di controllo su strada fa fede quello. Se non c'è questo dato, allora si può tranquillamente poi in sede di contenzioso sventare il dato che emerge dal portale dell'automobilista, e nel dubbio comunque fare un quesito ufficiale alla sede dell'ufficio provinciale della motorizzazione non guasta. Grazie Maurizio Caprino per essere stato con noi, buona patente a tutti, grazie a Gaia Romani, a Filippa Oreggi, Salvadanaio torna domani, a tutti da Deborah Rosciani, buona giornata.